Esercizio 3. Ascolta le frasi facendo attenzione alla pronuncia della M e della doppia M. 1. Non fumo più. In quell'occasione fummo davvero fortunati. 2. Sono sicuro che Maria m'ama. La mamma ha preparato un bel pranzo. 3. Se potremo, andremo al concerto domani. Se potessimo, andremmo domani al concerto. 4. È bello stare davanti al camino acceso. C'è un lungo cammino per arrivare alla meta. 5. Devi capire che questo è un comando. Un comando è un gruppo armato. 6. L'asino è una bestia da soma. Ha depositato una notevole somma di denaro.